Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Lettera sulla manovra dall'Europa, no alla retromarcia sulle pensioni e preoccupa il debito. Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, condannato all'ergastolo dal Tribunale Penale Internazionale. Inchiesta su una funzionaria del Ministero dell'Economia, mazzette per aggiustare la normativa fiscale. Oggi l'udienza a Strasburgo sull'incandidabilità di Berlusconi, ma lui dice vada come vada, sarò in campo. Traffico di esseri umani tra Italia e Francia, due arresti, venivano nascosti i migranti sui treni. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. Siamo sempre in diretta, come sapete, sulla nostra pagina Facebook, sulla pagina Facebook di Radio 24, una diretta video, quindi se volete ci potete anche vedere e potete anche commentare là, lì leggiamo i vostri commenti che scrivete durante la diretta Facebook. Iniziamo dunque questa puntata con, dall'altra parte del vetro, Filippo Aurelio in regia, Laura Faggini in assistenza e in redazione, parlando di Europa e andando al giudizio di Bruxelles sulla nostra manovra, appunto, di bilancio. Andiamo a sentire le parole di Dombrovskis. Six euro area member states are compliant with the stability and growth pact. E a collegarci col nostro Sergio Nava per fare un punto su quello che dicono da Bruxelles. Sergio, vai. Buongiorno Simone, sotto monitoraggio insieme ad altri 11 paesi per squilibri eccessivi, poche sorprese nella pagella europea sui nostri conti, resa nota ora di pranzo dalla Commissione. L'Italia resta a rischio inadempienza sugli obiettivi di bilancio e vedrà una nuova valutazione del debito in primavera. Nessuna procedura di infrazione per debito eccessivo, insomma, almeno per ora, anche se maggio resta un'ipotesi altamente possibile. In quei mesi i conti Bruxelles li farà direttamente col prossimo governo. Per la Commissione il persistere del debito elevato è motivo di preoccupazione, ma non sono tanti gli avvertimenti espliciti messi nero su bianco in una missiva inviata a Roma. In primis sulla manovra è cruciale che l'Italia adotti la manovra 2018 senza annacquare le sue disposizioni principali, attuandole in modo rigido e centrando anche lo sforzo strutturale dello 0,3% sul PIL. Così Dombrovskis, se la lettera prosegue, restiamo dell'opinione che serva un aggiustamento fiscale di almeno 0,3 punti ed è lo stesso pianificato dall'Italia, ma attualmente non lo vediamo ancora interamente presente. Dombrovskis ha elencato altre sfide per il nostro paese: crescita della produttività, livelli di debito pubblico e privato ancora alti, elevato livello di NPL nel settore bancario, sfide nel mercato del lavoro, e poi ha lanciato anche un monito: nessuna retromarcia sulle riforme strutturali, in particolare sulle pensioni. È tutto. E grazie a Sergio Nava per questo aggiornamento. Veniamo alla decisione del Tribunale Penale Internazionale su Mladic. With respect to the Srebrenica joint criminal enterprise. Il Tribunale Penale Internazionale dell'AIA per i crimini di guerra nella ex Jugoslavia ha condannato all'ergastolo in primo grado l'ex generale Ratko Mladic, già comandante dell'esercito serbo-bosniaco. L'accusa di genocidio e crimini di guerra contro l'umanità perpetrati durante la guerra di Bosnia tra il 92 e il 95. La lunga lettura della sentenza non ha lasciato margini di fuga all'uomo che è stato ritenuto direttamente responsabile sia delle stragi compiute tra i civili di Sarajevo, così come del tentativo di cancellare la presenza musulmana dall'enclave di Srebrenica. Mladic, 74 anni da quasi 7 in carcere, ha partecipato alla lettura della sentenza fino a quando si è fatto espellere per avere platealmente protestato contro il quadro che emergeva di lui. Ampiamente attesa, la condanna è comunque destinata ad alimentare la contrapposizione di posizioni sull'ex generale. Per la popolazione serba è una parte del mondo slavo e addirittura un eroe leggendario che ha difeso strenuamente il suo popolo. Per i bosniachi musulmani e gran parte dell'Occidente è invece uno dei peggiori e più feroci criminali di guerra di sempre. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Andiamo adesso invece a Strasburgo, perché oggi c'è stata l'udienza per il tribunale che dovrà decidere sulla candidabilità di Silvio Berlusconi. Si è svolta in un'aula strapiena stamattina l'udienza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul caso Berlusconi. I giudici di Strasburgo sono chiamati a decidere sul ricorso presentato dal leader di Forza Italia contro la sua incandidabilità e la sua decadenza da senatore sancite dalla legge Severino dopo la sua condanna per frode fiscale nel 2013. L'applicazione della legge non è stata arbitraria e i diritti dell'ex premier sono stati rispettati, ha detto nel suo intervento la rappresentante del governo italiano. Per i legali di Berlusconi, invece, la legge è stata applicata a fatti avvenuti 15 anni prima della sua entrata in vigore e la decadenza dell'ex cavaliere è stata votata da un Senato composto a maggioranza da suoi avversari. Quella di oggi è l'unica udienza dedicata al caso dai giudici della Corte. Per il verdetto inappellabile bisognerà però aspettare qualche mese. La speranza del leader di Forza Italia è che arrivi in tempo per consentirgli di candidarsi alle politiche di primavera. Anche oggi Berlusconi si è detto sereno e fiducioso ed ha assicurato che, candidabile o no, sarà comunque in campo nella prossima campagna elettorale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il caso Monte dei Paschi è al centro delle audizioni della Commissione sulle banche. Carmelo Barbagallo della Vigilanza di Banca d'Italia è stato audito questa mattina. Gli effetti della congiuntura in generale del contesto esterno sul bilancio della banca, di per sé già profondi, sono stati amplificati da comportamenti gravi e fraudolenti, dice il capo della Vigilanza, che si sofferma anche sul ruolo della Fondazione. Un ruolo significativo lo ha avuto l'ex socio di riferimento, la Fondazione, che ha inteso mantenere a lungo, anche quando non ce n'erano più le condizioni, una posizione di dominio o comunque di rilievo, erodendo il proprio patrimonio e indebitandosi. Questo per quanto riguarda MPS. Invece abbiamo notizie da Carige. Oggi è partito l'aumento di capitale che viene presentato questa mattina in una conferenza stampa. Un aumento di capitale da 560 milioni di euro partito oggi. Azioni e diritti sono in forte calo in borsa. Torneremo a parlarne ovviamente nello spazio dedicato ai mercati alle 13.30. I magistrati indagano su un passaggio di informazioni riservate dal Ministero dell'Economia, scrive il Corriere della Sera. Quando al Ministero dell'Economia cominciarono a discutere di una possibile tassa europea sulle transazioni finanziarie, la consulente del Dicastero non dimenticò i suoi precedenti rapporti con Ernst & Young e al colosso dell'assistenza legale e tributaria rivelò quello che invece doveva restare segreto. È una delle contestazioni mosse dalla Procura di Milano a Susanna Masi, consigliera di Via Nazionale, sia col governo Letta che con quello Renzi. In cambio di almeno 220.000 euro avrebbe rivelato in tempo reale quello a cui il governo lavorava, dando così un vantaggio alla società che poteva proporre ai suoi clienti ipotesi già in linea con le future direttive dell'esecutivo, ma provava anche in direzione opposta, sempre attraverso la sua donna, a orientare le decisioni nella direzione a loro più favorevole. I fatti vanno dal 2013 al 2015 e ora i PM hanno notificato l'avviso di conclusione d'indagine al rappresentante italiano di Ernst & Young, Ragusa, accusato di aver corrotto la consigliera ministeriale, a cui è contestata anche la rivelazione di segreto d'ufficio. A sua volta la società è iscritta in base alla legge 231 sulla responsabilità amministrativa. Solo dagli allegati a cui la difesa dice di non aver ancora avuto accesso si potrà capire se ci siano eventuali altri segreti usciti dal Ministero dell'Economia. Proveremo la totale correttezza, assicura il difensore della consulente Giorgio Perroni. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Traffico di esseri umani, di migranti dall'Italia verso la Francia, 6 arresti. A Ventimiglia facevano nascondere i migranti nei locali tecnici dei treni, molto pericolosi, laddove ci sono, che ne so, i sistemi elettrici. Così il dirigente della squadra mobile Carmine Mosca spiega come centinaia di migranti sono stati nascosti nei treni per passare il confine dall'Italia alla Francia. Un traffico di esseri umani scoperto dalla polizia grazie alle intercettazioni telefoniche. E durante il viaggio questi poveri migranti telefonavano ai passeri, gli dicevano che non riuscivano a respirare. 6 persone, tutte straniere, originarie dei paesi centroafricani, sono finite in carcere con l'accusa di traffico di esseri umani dall'Italia verso altri paesi europei, in particolare la Francia, attraverso il valico di frontiera di Ventimiglia. Le indagini della polizia hanno permesso di individuare 2 diversi gruppi criminali che favorivano l'ingresso oltre frontiera dei migranti, facendoli viaggiare sui treni oppure in auto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla vicenda all'Italia. Più soldi per comprare all'Italia. Il ministro dello sviluppo economico Calenda è tornato a parlare dell'offerta di Lufthansa sulla compagnia italiana, per la quale i commissari straordinari hanno avviato i colloqui con i potenziali interessati. Un'offerta che va migliorata, secondo il ministro, convinto poi che l'importante è che gli italiani abbiano collegamenti più efficienti possibili e si mettano meno soldi possibili. La situazione, insomma, non deve ricadere sulle spalle degli italiani. Una situazione che, ha ricordato, è conseguenza del no dei lavoratori al referendum sul piano di risanamento della compagnia che era nei diritti di questi lavoratori, ma il cui effetto ora non può ricadere sui cittadini. Intanto, proprio ieri, il commissario della compagnia Luigi Gubitosi ha detto che Alitalia può contare ancora su un tesoretto in cassa ed è abbastanza forte per potersi permettere di scegliere il miglior partner tra quelli che la corteggiano. Tra poco meno di un'ora a fare il punto della situazione saranno i commissari straordinari di Alitalia, Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari, in audizione alla Commissione Attività Produttive. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E torniamo ancora una volta sul possibile voltafaccia di Madrid nella corsa di Milano all'aggiudicazione di EMA, che traslocherà ad Amsterdam. Dalla Spagna c'è stata ambiguità. Al secondo turno hanno dato segnali contraddittori promettendo il voto tanto all'Italia quanto all'Olanda. Così spiega il sottosegretario agli affari europei Sandro Gozzi, presente alle votazioni a Bruxelles, nell'intervista di Livia Zancanera. C'è stata ambiguità della Spagna. La Spagna ha voluto fare la sua corsa e negli ultimi giorni gli spagnoli hanno fatto un forcing molto molto forte, addirittura chiedendo al re di Spagna di chiamare vari capi di Stato e di governo. Quindi gli spagnoli, che avevano una candidatura tecnicamente buona, come l'avevano gli austriaci con Vienna, come l'avevano gli svedesi con Stoccolma, come l'avevano i danesi con Copenaghen, hanno tentato di fare la loro corsa e quindi al primo turno non hanno preso impegni. Al secondo turno hanno dato segnali ambigui, contraddittori. Il ministro degli affari esteri, che è anche collega di partito del ministro Alfano, del PPE, aveva detto che la Spagna avrebbe votato l'Italia nel secondo turno, e attorno al tavolo il sottosegretario agli affari europei, che era presente, spagnolo, invece ha detto che avevano un impegno su Amsterdam. Insomma, è stata molto contraddittoria, molto ambigua la posizione spagnola. Però nonostante la Spagna, nonostante l'alleanza nordica che ha compattato Copenaghen e Amsterdam, noi siamo riusciti a sfilare a quel blocco, tra il secondo e il terzo voto, un voto. Non dirò nemmeno sotto tortura quale paese nordico abbiamo sfilato a Amsterdam nel passaggio dal secondo al terzo turno. Il punto è che siamo arrivati 13-13. Questo dunque il racconto di Gozzi. Veniamo al tema delle molestie, perché le accuse toccano anche un mito del mondo dell'animazione. Anche John Lasseter è stato travolto dallo scandalo sulle molestie sessuali. Il cofondatore di Pixar, la casa di animazione che ha rilanciato Disney negli anni 90, ha deciso di prendersi un'aspettativa di 6 mesi in seguito a una serie di accuse di avance sessuali indesiderate. Un articolo di Hollywood Report cita una serie di testimonianze di donne che dicono di essere state abbracciate e baciate e di aver subito commenti sui propri attributi fisici da parte di Lasseter. Nelle stesse ore in cui Hollywood Report pubblicava questo articolo, il capo creativo di Pixar ha inviato una lettera all'azienda. Non è stata mia intenzione, ha detto Lasseter, sostenendo di aver preso una decisione difficile. E la Disney ha dato tutto il suo appoggio a Lasseter. Apprezziamo il candore e la sincerità delle scuse di John e sosteniamo appieno il suo periodo di aspettativa, hanno scritto in una nota. Intanto, nuova puntata dello scandalo sulle molestie sessuali che vede coinvolto Harvey Weinstein. Sul New Yorker, la modella italo-filippina Ambra Batilana Gutierrez rivela i particolari dell'accordo da $1 milione per pagare il suo silenzio sulle molestie subite dal potente produttore della Miramax. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E prima di chiudere, di andare a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziare il nostro Giro d'Italia, un punto calcistico a cavallo tra i due appuntamenti di Champions, o meglio tra i 3 appuntamenti di Champions, nel senso che ieri ha giocato il Napoli e questa sera tocca a Juventus e Roma. Carlo, ciao. Carlo Genta. Ciao Simone, buongiorno a tutti. Allora, ieri ha giocato il Napoli, ha vinto 3-0 con lo Shakhtar, nel segno di un, farà un po' rima, non è bellissimo, ma di un grande Insigne. Napoli così fino al gol del suo giocatore, del suo enfant prodige, e da lì in poi un Napoli che ha meritato ampiamente il 3-0 con lo Shakhtar. Non basta perché, come già tutto previsto, a questo punto il Napoli deve battere l'ultima giornata il Feyenoord, cosa possibile in Olanda certamente, però deve sperare soprattutto che il City vinca sul campo del Shakhtar Donetsk, un City già matematicamente primo, quindi è una speranza legata appunto a Guardiola e ai suoi ragazzi. Io non sono così sicuro e nemmeno così fiducioso. Poi questa sera doppia sfida italo-spagnola, sì, di altissimo livello, la Juventus che riceve il Barcellona e la Roma a Madrid, con l'obiettivo, secondo me, plausibile di vincere a Madrid sul campo di un Atletico che non è in grande condizione, che non sta facendo una grande stagione, per provare ad arrivare prima nel girone. e sarebbe un grande risultato per la Roma, che garantirebbe un sorteggio più morbido e che comunque darebbe un peso specifico al grande risultato che la Roma sta facendo in questo girone certamente non facile. Grazie Carlo, alle 14 in tutti i convocati, si parlerà ovviamente anche di questo. Noi ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro Giro d'Italia. E lo inizieremo da Roma. Si è appreso recentemente che dei 23.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica, per farla semplice ve la dico così, le case popolari, ci sono 2000 persone tra le persone che occupano questi luoghi, ci sono 2000 persone che non dovrebbero starci perché i loro redditi non rispondono ai requisiti richiesti. Ci sono addirittura persone che hanno altre 18 proprietà immobiliari, persone che hanno redditi tra i 70 e i 90 mila euro. L'assessora, che sarà nostra ospite, ha scritto una lettera aperta a queste persone, ha detto: mettetevi una mano sul cuore, voi in queste case non ci potete stare. Questo e altro tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per sms e messaggi su WhatsApp. C'è anche la nostra pagina Facebook, dalla quale andiamo in diretta video e forse complice la trasmissione di Gianluca Nicoletti, che ha preceduto questa, che parlava di questo anatema di Dacia Maraini contro gli uomini sulle barbe. State praticamente commentando solamente questo sulla pagina Facebook. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della condanna per Ratko Mladic all'ergastolo, della lettera sulla manovra che è arrivata da Bruxelles, dell'inchiesta su una funzionaria del Ministero dell'Economia, dell'udienza a Strasburgo sull'incandidabilità di Berlusconi, come avete sentito anche di calcio. Adesso iniziamo il nostro Giro d'Italia e iniziamo ancora una volta da Roma. Iniziamo da Roma perché c'è questa lettera dell'assessore al patrimonio e alle politiche abitative di Roma Capitale, Rosalba Castiglione, che è in linea con noi. Buongiorno, assessore. Buongiorno a voi. Che ci racconta qualcosa di pazzesco. Lo scrive bene Simone Cannettieri, il collega Simone Cannettieri sul Messaggero, e racconta qualche dettaglio. Parliamo delle case popolari, dell'edilizia residenziale pubblica, complessivamente 23.000 alloggi. Avete fatto un censimento, Castiglione, ed è emerso, leggo dal pezzo di Cannettieri: da chi ha la casa popolare e altri 18 immobili di proprietà, chi risulta residente altrove, fuori Roma, e chi a fine anno denuncia redditi tra i 70.000 e i 90.000 euro, e queste sono 2.000 persone. Altri 1.600 invece hanno avuto la casa popolare, per così dire, in eredità, nel senso ce l'avevano i genitori o dei parenti e ci si sono messi loro. Ho capito bene? Ha capito purtroppo benissimo. Consideri che il censimento ha portato alla luce questo scempio del patrimonio immobiliare pubblico. Patrimonio immobiliare che dovrebbe essere destinato per legge a chi non ha la possibilità di accedere al libero mercato. Io ricordo semplicemente che la possibilità di accesso all'edilizia residenziale pubblica si fonda su dei dati economici ben precisi. La possibilità di accedere con un reddito non superiore a 20.000 euro fa capire che la destinazione dell'immobile è dedicata proprio alle fasce più deboli della nostra popolazione. Ovviamente anni di malgoverno, di malgestione hanno condotto, diciamo, i cittadini che in qualche modo hanno visto delle maglie entro cui potersi inserire, la possibilità di considerare come propri questi alloggi. Sì. E vengono fuori questi numeri che sono enormi. Sì. 2000... sì, perché qua, assessora, qua qualche ascoltatore dice: guardate che non succede solo a Roma. E l'ascoltatore ci scrive, dice: succede anche da noi a Santeramo in Colle. È chiaro, però le dimensioni di Roma e le dimensioni dell'edilizia pubblica a Roma, le dimensioni degli inquilini abusivi a questo punto a Roma sono talmente enormi che ha una dimensione nazionale, ed è per questo che ce ne occupiamo, posto che possiamo parlare di tutti i casi particolari che volete. Ci diceva numeri enormi, no? Numeri enormi e numeri spaventosi che veramente gridano vendetta. Considerate che una decina di giorni fa, perché noi siamo già partiti con l'operazione, abbiamo già recuperato parecchi immobili, abbiamo sgomberato un signore che, oltre ad avere 90.000 euro, aveva anche la Porsche parcheggiata sotto casa. consideri che La Porsche. Invece, sotto la casa popolare. Sì. Stava occupante abusivo di una casa popolare. Non sarebbe da ridere, però purtroppo questo è lo stato in cui versava il Comune di Roma. Consideri anche che di 2 giorni fa la restituzione volontaria di un appartamento, perché stiamo facendo e stiamo agendo già da un bel po' di tempo, di una signora che si era in qualche modo insediata nella casa della nonna defunta in un alloggio ERP in pieno centro storico a Roma, a 100 metri quadri a 100 metri da Piazza Navona, ad un canone sostanzialmente ridottissimo. Perché esistono anche case popolari a 100 metri da Piazza Navona, perché anche questo è un tema, assessora. Esistono anche quelle, stiamo affrontando anche adesso il problema, perché vede, in mancanza di un censimento, l'analisi che abbiamo svolto sul territorio è stata innanzitutto di scovare i furbetti, prima di tutto. E poi stiamo iniziando altre verifiche approfondite sulla natura degli immobili, perché io ho quasi 100 immobili con una destinazione di residenza pubblica al centro di Roma, e vorrei capire se questa destinazione è una destinazione reale, è una destinazione, diciamo, che nasce da qualche atto di generosità di qualche politico o qualche amministrazione precedente. E questo è sicuramente un tema, e può darsi che diventi anche un tema per la magistratura. La domanda che ci stanno facendo gli ascoltatori via SMS, via WhatsApp: ma quando li cacciate questi, assessore? Ma già abbiamo cominciato, Noi cacciamo e in tempo reale consegniamo la casa a chi ne ha diritto. Considerate che su Roma ci sono 2 graduatorie, una del 2000 e una del 2010, se non ricordo male. E ci sono persone in attesa dal 2000, sono 17 anni che stanno in attesa della casa popolare, quindi la procedura che si è instaurata è: da un lato si sgombera e dall'altra parte si riassegna in maniera quasi contestuale, evitare altre occupazioni abusive, evidentemente. Che poi è l'altra faccia, se vogliamo, appunto, dell'altro grande problema di Roma, che sono queste 12.000 persone che occupano, che occupano abusivamente non solamente case popolari, ma anche palazzi normali, palazzi di proprietà di aziende o di altre persone. Torneremo a parlare con lei, assessore, sicuramente, magari proprio per affrontare questo problema degli abusivi che abbiamo toccato molto spesso. E grazie all'assessore Castiglione per essere stata con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi, arrivederci. E adesso nel nostro Giro d'Italia torniamo sulla vicenda della quale ci stiamo occupando quasi continuamente, quasi costantemente, ed è la vicenda dei profughi, o meglio dei richiedenti asilo, che sono partiti dalla base di Conetta, siamo in provincia di Venezia, sono diretti verso la prefettura di Venezia perché vogliono chiedere sostanzialmente condizioni migliori all'interno di quella che più volte abbiamo definito e non temiamo di definire una vergogna nazionale, cioè un luogo nel quale vengono ammassate centinaia di persone senza alcuna qualità sanitaria o di sicurezza, una sorta di deposito di esseri umani dal quale queste persone sono partite. Abbiamo sentito molti attori in campo in queste ore, abbiamo sentito ieri l'USB, abbiamo sentito il sindaco di Cona, abbiamo sentito gli enti territoriali, e adesso andiamo da chi nella pratica sta facendo accoglienza di queste persone che si sono mosse dalla base. Saluto Don Marco Cagol, che vicario episcopale per i rapporti con il territorio della diocesi di Padova. Buongiorno Don Marco, benvenuto. Buongiorno, grazie. Quante persone avete ospitato finora? Allora, abbiamo ospitato la prima sera, quando era uscito il primo gruppo, circa un centinaio di persone nella chiesa di Codevigo, e poi invece in queste ultime 2 notti nella centro parrocchiale della parrocchia di Piove di Sacco, 54 persone, poi le stesse 54 questa notte nel seminario minore di Padova, perché queste persone mal consigliate invece di andare verso Venezia sono venute a Padova pensando che la prefettura di Padova potesse far qualcosa sulla base di Conetta. Noi siamo comunque coinvolti anche a Conetta, perché Conetta comunque ricade sotto la diocesi di Padova. Lei ha detto Don Marco mal consigliate, su questo si è acceso una sorta di piccolo scontro tra voi, che avete rilasciato un comunicato nei giorni scorsi accusando sostanzialmente ovviamente il sindacato USB di aver sobillato queste persone, di averle spinte ad uscire dalla base e a lasciarla, e questi stessi l'USB che ieri abbiamo interpellato e ci dicono no, guardate, in realtà ci dispiace molto per quello che scrive l'arcidiocesi, in realtà noi non abbiamo sobillato queste persone, si sono mosse da sole perché le condizioni sono terrificanti. Cosa dite? Ma allora, che le condizioni non siano opportune per questi ragazzi, questo noi lo diciamo da tempi non sospetti, quindi noi abbiamo sempre avuto un parere molto preciso sulle basi. Nonostante questo, poi di questi ragazzi noi ce ne occupiamo continuamente anche dentro le basi, perché abbiamo nominato, abbiamo un cappellano, abbiamo delle equip che lavorano dentro e tutta una serie di altre questioni. Quindi dal punto di vista del fatto che quella condizione lì di vita non è sostenibile per lungo tempo per un giovane, per una persona, su questo siamo perfettamente d'accordo e riteniamo che anche la protesta abbia una sua legittimità. Non condividiamo la modalità della protesta, che va fuori dalle regole e che illude questi ragazzi che facendo queste azioni poi possano effettivamente risolvere il loro problema, quando invece rischiano di perdere i loro diritti. In questo senso non condividiamo, diciamo, chi li spalleggia in questa modalità. Devo anche, io non lo so se loro li sobillino e se siano all'origine, però io ho visto alla chiusura dell'accoglienza di questa mattina come effettivamente questi ragazzi non facciano un passo senza prima avere l'assenso di queste persone, e anche questa mattina hanno preferito credere a loro e quindi voglio dire, credo che un ruolo comunque lo giochino, ecco, hanno ostacolato una soluzione che noi insieme con la prefettura avevamo trovato, e quindi io prendo atto, insomma, che questa modalità è diversa da quello che faremmo noi, e riteniamo che quello che i ragazzi stanno facendo non li porterà molto lontano, nel senso che hanno, sì, il diritto di protestare, ma in questa forma rischiano molto, ecco. Quello poi che non accettiamo, sì, prego, è il ricatto morale, cioè che siccome la Chiesa deve fare la Chiesa, allora loro decidono che noi dobbiamo comunque accoglierli perché ce li mettono davanti a un centro parrocchiale, a una chiesa, oppure si piazzano lì. Ecco, se c'è un'emergenza noi siamo sempre disponibili, soprattutto se ce lo chiedono le autorità, però non accettiamo lezioni e recatti morali da queste persone. E questo è un punto importante. Don Marco, lei parlava del rischio di perdita di diritti di queste persone che lasciano la base di Conetta, perché a tutti gli effetti se lasciano per tre notti, se non sbaglio, no? Tre giorni, quant'è il tempo? Adesso non so esattamente, sì, comunque sono tre giorni circa. Sono tre giorni circa, se lasciano uno di questi luoghi, per così dire, di accoglienza, perdono la possibilità di essere ospitati in altri luoghi, ho capito bene? Nel senso che loro non perdono il diritto di essere sul territorio italiano in quanto sono protetti dal diritto internazionale, perché sono richiedenti protezione internazionale, ma perdono il diritto di essere collocati dentro i centri di accoglienza assistiti che il governo ha predisposto in tutto il territorio, quindi loro rischiano veramente di ritrovarsi poi, sì, in cui non sono più assistiti, ecco, possono girare liberamente perché appunto in quanto richiedenti asilo hanno diritto di rimanere sul nostro territorio, però rischiano di perdere il diritto a un'accoglienza, tant'è che ieri hanno anche chiesto che in virtù di questa ulteriore notte che poi gli abbiamo offerto di essere garantiti su questo, e insomma c'era anche l'accordo perché questo non avvenisse, insomma, almeno per questa notte. Cosa potrebbero ottenere dal prefetto di Venezia? Voi immagino che un po' con le prefetture ci abbiate parlato o no? Sì, immagino di sì, insomma, sì, perché poi questi sono diretti. Sempre in contatto perché noi crediamo molto nella collaborazione tra istituzioni e società civile, tant'è che anche sul territorio padovano noi abbiamo una grandissima collaborazione con la società civile proprio per favorire tutti i processi di migliore integrazione. Però cosa potrebbero ottenere dal prefetto di Venezia? Sicuramente almeno due cose, secondo me, potrebbero ottenere il fatto che comunque venga presa in carico anche politicamente, anche a livello, direi a Roma, la questione della base di Cona, e che effettivamente si instauri un processo virtuoso per il quale la permanenza in questi luoghi non diventi troppo lunga, ma che possano vedere effettivamente che progressivamente, man mano che passa il tempo, a gruppi vengono poi destinati ad altre sistemazioni. Grazie a Don Marco Cagol della Diocesi di Padova per essere stato con noi e per averci raccontato questa vicenda e per averci aiutato a mettere un altro punto sulla vicenda di Cona. Noi ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo e parleremo di un paio di cose. Innanzitutto lo sciopero che arriva per uno dei centri logistici principali di Amazon, proprio a ridosso del Black Friday, ossia questa giornata di acquisti importata, che è questo venerdì che arriva, importata per così dire dagli Stati Uniti e da altre culture. E poi la storia di una perizia grafologica per identificare un insulto sessista a una consigliera comunale. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: è condannato all'ergastolo dal Tribunale Penale Internazionale Mladic, riconosciuto il genocidio per Srebrenica. Lettera sulla manovra dall'Europa, no alla retromarcia sulle pensioni e preoccupa il debito. Inchiesta su una funzionaria del Ministero dell'Economia, mazzette per aggiustare la normativa fiscale e il sospetto. Oggi l'udienza a Strasburgo sull'incandidabilità di Berlusconi, la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, piccola nota sulla vicenda di Cona, di Conetta e dei richiedenti asilo. Giorgio da Torino ci dice: perché invece di tante parole, che comunque non mi sembrano parole perché sono racconti di quello che succede, non intervistate il prefetto a cui spetta gestire la situazione? C'è Laura Faggin che sta inseguendo il prefetto da 4 giorni, a 3-4 giorni. Quando ci risponderà e vorrà intervenire a Radio 24, a Effetto Giorno, per parlare di questa vicenda, noi saremo ben lieti di averlo, naturalmente, è la voce dello Stato in questo caso, quindi particolarmente importante. Il nostro Giro d'Italia ci porta adesso a Bari per una storia che, insomma, è una piccola storia che però abbiamo trovato da una parte interessante perché rappresentativa di un certo atteggiamento nei confronti delle donne in politica, dall'altra parte anche divertente per quello che poi è avvenuto, no? Per un certo timore che si è diffuso. E qual è la storia? La storia di un insulto sessista scritto ad una consigliera comunale di opposizione, Irma Melini, che è in linea con noi. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. Un insulto scritto e che pare che su questo insulto sia stato vergato dalla mano di un altro consigliere comunale. E che cosa è successo? È successo che inizialmente, quando questo insulto anonimo è apparso, tutti i consiglieri comunali si sono detti d'accordo, hanno detto: bene, facciamo una perizia grafologica e vediamo chi di noi è stato. Dopodiché, quando è stato il momento di sottoporsi a questa perizia o di dare il via libera al pagamento, alla colletta per pagare un perito, e poi sono rimasti in tre alla fine, Melini. Sì, sono rimasti in tre e tra quei tre c'era colui che aveva cambiato idea 3 minuti prima di entrare in conferenza stampa e anche durante la conferenza stampa. Diciamo che hanno dovuto estrarre poi il nome perché un mio collega di opposizione ha detto: io non sono un pagliaccio, sono stato convocato per estrarre un nome del consulente di parte e voglio estrarre il nome. Questa, diciamo, è la triste storia delle sono spariti tutti per paura che il grafologo beccasse qualcuno. Beh, forse si sono accorti che avremmo avuto il nome, forse non se ne erano accorti quando hanno convocato la conferenza stampa il giorno prima, ma qualcuno li avrà fatti riflettere, che noi eravamo 23 che, in aula. Esatto, quindi... che perito calligrafico, grafologo vuol dire che riconosce chi ha scritto una certa cosa, forse non sapevano esattamente, sono andati nel frattempo sono andati a vedere sul vocabolario. Ma chi come è apparso questo insulto? Dove è apparso? Su che documento è apparso? È apparso su una scheda elettorale di un voto segreto. L'ha detto lei, a Bari, capoluogo di regione, abbiamo votato una votazione abbastanza banale, dovevamo eleggere due colleghi, uno di maggioranza e uno di opposizione. Io non ero neanche candidata, i due colleghi erano noti. Su una scheda viene letto il mio nome e poi viene dichiarata nulla, quindi mi sono incuriosita e ho chiesto insistentemente al banco della presidenza di poterla leggere, di acquisirla. Non me l'hanno voluta dare, visto che ero molto insistente, mi hanno detto che avrei dovuto chiederne la lettura al microfono. Ovviamente io sono una consigliera molto combattiva, mi sembrava evidente che fosse comunque un insulto, non pensavo di questa portata. Ho chiesto al microfono la lettura, noi siamo in diretta streaming, quindi è stato abbastanza vergognoso, una doccia fredda, tanto che ha avuto una reazione immediata, ha avuto un crollo. Beh, mi scusi, però anche la presidenza d'aula che pretende che questa cosa sia letta a microfono non è granché bella, Guardi, sono tante le discussioni che possiamo fare su questo, tra l'altro era un voto segreto, però c'è un dato che sono momenti difficili, non c'è precedente di questo. I consigli comunali sono meno importanti dell'aula di Montecitorio, sì, ma siamo molti di meno. C'è un'inchiesta penale, c'è un'inchiesta penale su questo, no? Perché lei... Io mi sono rivolta subito alla subito, dopo 4 giorni, il tempo di acquisire gli atti, ma diciamo in tempi brevissimi, mi sono rivolta alla magistratura. E tra l'altro anche il sindaco ha denunciato il suo stesso comune. È evidente che quello che ho dichiarato io fin dall'inizio, quando ho visto che tutti si affrettavano a dichiararmi la loro solidarietà, ma poi alla fine è rimasta carta scritta, perché plasticamente ieri non erano neanche in conferenza stampa tutti, avevano le idee confuse. Ora si rischia anche che la vittima diventi il carnefice, allora ha detto questo, ha detto quell'altro, insomma c'è un dato, esiste la magistratura fortunatamente, sì, apre un'indagine . È la cosa più vergognosa che debba essere la magistratura a ripulire la politica anche in un comune, anche con un voto segreto di 23 consiglieri, solo 23 consiglieri. Caro Stefano da Udine, non diremo da questi microfoni a quest'ora che cosa hanno scritto alla consigliera Irma Melini, la consigliera comunale di Bari, perché ce lo chiede, che cosa hanno scritto, e se lo vado a vedere da qualche parte su internet lo troverà. Siamo in fascia protetta e quindi non lo dico. Ogni tanto scappa qualcosa, ma in questo caso non lo diciamo, anche perché sarebbe una reiterazione dell'insulto. Grazie Irma Melini, consigliere comunale di Bari, grazie per essere stata con noi. Buona giornata, buon lavoro, traffico platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.